Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi comincia da una graphic journalist. Lei è Antonella Selva, il titolo del volume Donne, Terra e Dignità, un reportage a fumetti, e parla di un incrocio tra un'esperienza marocchina nell'entroterra di Rabat e i nostri Appennini. Dopo lo stacchetto musicale, la parola ad Antonella. Sono qui con Antonella Selva per questo suo ultimo lavoro di Graphic Journaling, Donne, Terra, Dignità, un reportage a fumetti, edizione Astarte, e quindi si torna a guardare, come nei tuoi lavori precedenti, cosa succede nelle cosiddette periferie dell'impero. Sì, si tratta infatti di una storia marocchina che avviene in un minuscolo villaggio dell'entroterra di Rabat, tra Rabat e Kabisset, in un altopiano molto arido. Un villaggio che fino ai primi anni 2000 poteva ricordare probabilmente i paesini della Calabria che si spopolavano negli anni 50, cioè con un'emorragia di abitanti, di gente che andava via, non c'era l'acqua corrente, non c'era l'elettricità, non c'erano le strade, non c'era niente, praticamente all'abbandono. E che però tra il 2013 e il 2015, nella sorpresa di tutti, è assurto agli onori delle cronache, soprattutto nei siti e nella stampa francofona, come esperimento pilota di transizione agroecologica di successo. Cioè, in realtà cosa è successo concretamente? Quello che si diceva appunto in quegli anni, 2013-2015, era che in questo villaggetto il trend di popolamento era stato ribaltato, cioè la gente ricominciava ad andare ad abitare lì. Avevano fatto progetti di agroecologia, orti di permacultura, un commercio equo, erano stati quelli che con i loro prodotti, in particolare i primi prodotti che avevano iniziato a vendere erano polli, ruspanti e uova, avevano aperto nella città di Rabat il primo mercato della terra, quindi mercato contadino, e avevano anche iniziato a fare accoglienza turistica. Prima solo per i nazionali, poi dopo si sono aperti anche al pubblico internazionale, e lì noi abbiamo iniziato a conoscerli perché con l'associazione Sui Conti e la cooperativa che ha fondato il Marocco abbiamo di turismo responsabile il Marocco, appunto. Quindi li abbiamo conosciuti, però io mi ero sempre chiesta come fosse stato possibile che in quella località specificamente fosse avvenuta questa svolta assolutamente impensabile, quando le condizioni apparentemente erano le stesse di tantissimi altri località nell'entroterra marocchino. E finalmente nel 2022 ho avuto la possibilità di soggiornare lì per un po' e parlare approfonditamente con la cooperativa delle donne, con gli attivisti locali, e ho capito quali erano gli elementi di questa alchimia che aveva permesso questa svolta, che sono elementi di tipo culturale, di tipo sociale, e comunque la loro lotta inizialmente era contro il notabile locale, quindi una lotta di una comunità contadina contro il notabilato, contro il potere del dignitario del loro territorio. A un certo punto del tuo racconto, disegno, vedo le due torri. Sì, infatti questa vicenda, che è una vicenda assolutamente marocchina, viene commentata nel reportage da alcuni personaggi della rete appenninica bolognese, dell'Appennino bolognese, persone che fanno riferimento all'associazione Campi Aperti, contadini, che sono contadini bio di prossimità, come penso tutti gli ascoltatori di Radio Città sappiano, la rete, la RAFA, rete appenninica femminista, e due centri culturali, uno è il centro civico di Vedegheto, l'altro è la Bisaboga, che è questo centro culturale socioculturale a Montasico tra Matabotto e la Samoggia. Perché in fin dei conti le problematiche di chi vuole vivere della terra, vuole stare lontano dalla città, in realtà si somigliano, hanno degli elementi comuni, e anche delle differenze, perché è chiaro che tra l'entroterra marocchino e quel bolognese c'è differenza, però ci sono anche degli elementi interessanti. Quindi questi testimonial della rete appenninica mi rispondono ad alcune domande, intervengono in 5 interludi tra un capitolo e l'altro e rispondono a 5 domande strategiche che erano quelle che la storia marocchina mi aveva suggerito. Le domande sono: quanto è importante la proprietà della terra e quanto è difficile ottenerla? Quanto è importante la vicinanza per un percorso di quel tipo, la vicinanza con una grande città, con tutto quello che comporta, ad esempio di pubblico interessato ai prodotti e anche di fermento culturale, innovazione culturale. In Marocco ovviamente c'è un elemento molto importante che è il conflitto di potere tra uomini e donne, e quindi anche questa cosa chiedo ai testimonial bolognesi se esiste, se si può parlare di una cosa di questo tipo anche nella nostra realtà o se la consideriamo superato, e lì vengono fuori anche delle cose interessanti. E poi la questione del notabilato, quindi diciamo il rapporto con il potere in qualche modo, quindi che cos'è che rappresenta il potere qua oggi e che ostacoli ti pone, e l'importanza dell'alleanza con un gruppo intellettuale che in Marocco ha avuto una notevole importanza, un gruppo che si è formato all'interno dell'Università di Rabat. E niente, queste sono un po' le domande che loro... Questo è il contenuto, ma il formato, il contenente. Tu, dopo un esperimento anche l'acquarello, sei tornato al tuo modo classico di esprimerti in bianco e nero. Sì, io preferisco in realtà la china, e quindi questo qua in bianco e nero. Ci sono due tecniche. Il Marocco, tutte le parti marocchine sono a pennello, quindi china a pennello, e mentre le parti i bolognesi, che sono poi centrate su Piazza Verdi, perché le interviste le faccio svolgere nel mercatino di Campi Aperti di Piazza Verdi, che oggi non c'è più, è stato spostato in Piazza 8 Agosto, però Piazza Verdi era molto più bella, e lì, quello lì, la parte bolognese è a pennarello. Quindi diciamo di fantasia c'è molto poco, molto di indagini giornalistiche. Sì, in questo caso è sostanzialmente un'indagine giornalistica, però come spesso abbiamo detto, abbiamo avuto modo di ripetere, il fumetto è proprio un medium che proprio per la sua lentezza ti porta ad andare molto a fondo le cose. Infatti questa storia in parallelo con la rete penninica mi è venuta in mente proprio perché ci sono stati mesi su questa storia, perché se uno invece dovesse scrivere in una settimana il reportage, il resoconto dell'intervista che ha fatto, cioè probabilmente molte cose non le penserebbe. Perciò il tempo diciamo necessario per costruire questo volume è tanto, prima di indagine e di vita e poi di... Sì, complessivamente da ottobre 2022 io ho finito alla fine di dicembre 2023. Poi dopo c'è la parte della stampa che ha fatto la casa editrice. Laissez-moi dans mon monde. Laissez-moi je vais en entendre, elle sera là si je tombe. Laissez-moi dans mon monde. Quoi qu'il arrive, je vais t'attendre. Mon monde il tourne autour de toi. Plus fort que moi, si tu tombes, je serai là. Tu peux compter sur moi. Kalbi et tap tap, Aïti Baba. Pas au top top quand t'es pas là là. La porte je toc toc, t'inquiète pas. J'suis venu pour toi, préviens ton papa. Allo, allo, téléphone et sonna. Allo, allo, mal bibi malo. Allo, allo, يمكن زاده بالو. Allo, allo, téléphone et sonna. Allo, allo, téléphone et sonna. Allo, allo. Chanel, nous deux c'est chambé. Tu veux que je t'emmène loin des gens et loin des problèmes. Y'a personne qui s'en mêle, ton père changera d'avis. Je ferai ce qu'il faudra pour venir changer ta vie. J'ai le cœur serré, j'ai peur que tu partes. T'en as tellement fait, pour toi je peux tout donner. Viens parle à mon père, il va peut-être s'aider. Je veux pas finir ma vie avec quelqu'un. Dopo aver narrato fumetti come può risorgere un paese altrimenti abbandonato, veniamo invece all'appuntamento mensile con il blog Donne con lo zaino, ovvero sia lo spazio di fumetti al femminile curato da Patrizia D'Antonio. Si parla dunque di un personaggio simbolo, Mafalda di Chigno. In questa rubrica di Donne e Fumetti vogliamo dare un grande spazio a un personaggio in lotta con il mondo e quindi parla del mondo degli adulti, ma anche quello dei bambini, soprattutto dal suo punto di vista, l'avrete capito, si tratta di Mafalda. È un personaggio creato dall'artista argentino Joaquín Lavado, detto Chino in arte, pubblicato tra il 1964 e il 1973. E la protagonista, questa bambina, quindi diventata popolarissima in Sud America, ma poi anche in tutto il mondo, è stata pubblicata persino in Cina, ha uno sguardo quindi sull'umanità che è sicuramente femminile, acuto, irriverente, ma che lascia davvero sbigottiti e si differenzia dai personaggi, altri personaggi bambini come i Peanuts, come Charlie Brown. Anche se nella prefazione di Umberto Eco alla pubblicazione nel 69 Mafalda la contestataria di Bompiani, Umberto Eco appunto quasi la comparava appunto a Charlie Brown e ai suoi compagni. In realtà la differenza è che Mafalda e i suoi amici non sono pronti ad integrarsi, al contrario, denunciano questo mondo pieno di contraddizioni e ingiusto con forza e separandosi anche appunto da questa visione del mondo e dei suoi valori. Ripercorriamo un momento la storia. Abbiamo detto che la nascita è davvero particolare perché Julián Delgado, che era il direttore del settimanale Primera Plana, lo invita appunto Chino a mantenere questo personaggio che era stato creato per una pubblicità che poi non è stata utilizzata per una ditta di elettrodomestici e comincia poi appunto a pubblicarlo, inizia il 29 settembre del 64 su Primera Plana appunto, che poi viene sospeso e viene utilizzata invece, vengono pubblicate queste strisce giornalmente su El Mundo, il giornale di attualità di Buenos Aires, che permette appunto al creatore Aquino di seguire l'attualità e quindi far denunciare tutto ciò che accade giornalmente a Mafalda. I suoi amici poi via via vengono appunto pubblicati, creati e pubblicati, sono Manolito, Susanita, Felipe e altri, e finisce quando la mamma di Mafalda è incinta il 22 dicembre del 67 per il fallimento del giornale. Nel 66 ci viene pubblicata una prima raccolta che viene venduta, le 5.000 copie vengono vendute in due giorni, si esauriscono, quindi la pubblicazione riprende nel giugno del 68 e per il settimanale Siete Dias continua fino al 25 giugno del 73. Ovviamente l'attualità diventa meno importante nelle strisce, poi appunto Chino decide di fermare per non ripetersi e per dedicarsi ad altri progetti. Saranno state pubblicate più di 3.000 strisce al 73, tradotte nel Sud America, soprattutto in Spagna, in Brasile e in Portogallo, e paesi dove vengono inserite in riviste di pediatria e pedagogia. Questo ci sembra davvero straordinario, questo sguardo infantile sul mondo così originale e così suscettibile appunto di discussione e di dibattito. In Italia un'antologia a cura di Feltrinelli viene pubblicata nel 68 e poi, dicevamo, nel 69 Mafalda la contestataria. Il giornale Paese Sera poi e altri inizia la pubblicazione giornaliera delle strisce negli anni 70 e due cortometraggi d'animazione e poi nell'82 un lungometraggio vengono appunto dedicati. Peraltro a Buenos Aires ci sono tre statue, una la più importante si trova tra la via Defensa e il Cile nel quartiere di San Telmo, e una targa commemorativa si trova nell'edificio dove l'autore creò il personaggio e possiamo dire che è importante sapere che questo personaggio in questi primi anni non, viene guardato male anche un po' dalla sinistra peronista, con l'accusa insomma di non essere abbastanza politicizzata. Mafalda ovviamente viene messo all'indice dalla destra golpista di Videla e questo costringe Chino ad abbandonare l'Argentina proprio per questioni di sicurezza. Come tra l'altro altri fumettisti argentini, sappiamo come Héctor Oesterheld, l'autore dell'Eternauta. Bene, è quello che possiamo ancora dire, ci sarebbe moltissimo, è che Mafalda appunto è questo suo gruppo di amici, è questa bimba di 6 anni che odia la minestra, è molto preoccupata del mondo e della vita. Si interessa dell'attualità, appunto della guerra del Vietnam, nell'epoca della fame, del razzismo. Il suo indomito spirito ribelle mette a dura prova i nervi della mamma e del papà e degli adulti in generale, che poi devono ricorrere al calmante Nervo Calm proprio perché non sanno rispondere a queste domande un po' retoriche e talmente forti che pone Mafalda, mettendo di fronte agli adulti alle contraddizioni, appunto le difficoltà. Ultima appunto, riflessione tra i vari, come esempio, diciamo, citiamo uno dei suoi amici che è la piccola Libertà, che è una bambina molto bassa, la cui famiglia insomma, ha difficoltà economiche molto importanti. Il padre è un socialista e quindi lei si nutre un po' di queste idee. E le ripeto, nei dialoghi con Mafalda sono dialoghi molto, molto carini. Vogliamo solo raccontare una striscia in cui appunto la piccola Libertà risponde alla domanda di Mafalda per sapere che cosa scrive la mamma a macchina, visto che si sente il rumore tip tap delle battute appunto della macchina da scrivere. Libertà risponde: scrive traduzioni per i libri perché quello che guadagna mio papà basta solo a pagare l'affitto. Mia mamma sa il francese, i francesi scrivono i libri in francese, lei li copia come parliamo noi e con quello che prende compra la pasta e altre cose. E per esempio c'è un tipo, aspetta, come si chiama? Jean-Paul Bel... No, no, Sastre si chiama. E subito Mafalda, che è molto aggiornata, ripete: Ah, Sartre! E la piccola Libertà, ecco sì, lui, pensa, l'ultimo pollo che abbiamo mangiato l'ha scritto proprio lui. Ecco, qui c'è tutto il sarcasmo e dietro l'ideologia, l'attualità appunto culturale, sociale e politica di quegli anni. Ci sembra un bell'esempio per concludere, ma ce ne sarebbero tantissime. Ovviamente invitiamo tutti a rileggere le strisce di Mafalda, sono di una attualità incredibile. Alla prossima. Thank you.